Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Rapida informazione di servizio, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it, il mio blog Guardie o Ladri lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore o attraverso motore di ricerca. Potete scaricare via podcast tutte le puntate di tutte le trasmissioni di Radio 24 andando sul sito. Allora, alcuni giorni fa, alcune settimane fa, ho ricevuto una mail abbastanza curiosa, perché denuncia una cosa che può accadere. Accade, può accadere, per carità di Dio. Magari sotto le festività, nei periodi in cui il cosiddetto fresco nei supermercati, quindi la merce fresca, può essere sì controllata, ma qualcosa può sfuggire. Ma la curiosità viene dal fatto che questa lettera proviene da un medico, quindi una persona che conosce ovviamente l'importanza dello star bene, della salute, e è oltretutto un ex assessore regionale alla sanità delle Marche. Stiamo parlando del dottor Augusto Melappioni. Che cosa scrive questo radioascoltatore nella sua mail? Dice: il 28 dicembre ho acquistato presso una Coop una confezione di datteri ben fornita di vermi morti. Sono andato il 31 dicembre, mentre probabilmente la gente si preparava a mangiare panettone, a far esplodere bottiglie di champagne, a chiedere conto di questo, e mi è stato detto: beh, sui prodotti freschi capita, che cosa vuole che sia, la cambiamo. Da lì il dottor Melappioni, in un avvitamento probabilmente, diciamo così, di tensione, di insoddisfazione per la risposta ricevuta, ha cominciato ad interloquire con la Coop, alla quale va dato atto di aver sempre risposto alle mail del professor Melappioni, dando conto di quello che può essere successo, per carità di Dio, ma insomma si poteva venire incontro a questa questione. Il professor Melappioni però ci tiene a raccontare questa cosa, noi ci teniamo ad ascoltarla, e così come teniamo a sentire la voce della Coop. Professor Melappioni, buongiorno. Buongiorno. E do il buongiorno anche al dottor Maurizio Faccin, che è direttore di servizi di rete di Coop Adriatica. Buongiorno Faccin. Buongiorno anche a lei, al dottor Melappioni. Allora, insomma, Melappioni si è proprio arrabbiato di questa risposta. Non si fa così, questo posso sintetizzare così il suo concetto. Sostanzialmente sì, nel senso che, diciamo, la risposta formalmente poteva anche essere sufficiente come cittadino, però se piglio il mio senso civico e dico: vabbè, ma agli altri che cosa ricade di questo guaio, insomma, c'è un lato positivo? Ecco, è stato questo il motivo di non andare all'ASL a fare la denuncia, ma andare alla Coop. Aveva avuto una risposta di questo genere, che a mio parere sembra insufficiente, la stessa risposta prontissima, immediata, da parte della Coop di riferimento centrale, insomma una serie di questioni per cui io ci sono rimasto francamente male, perché ecco, penso che questo non sia una ricaduta positiva per l'utente. Mi era capitato anche in passato, la risposta per un altro prodotto anni fa era stata: vai al bancone e pigliatene un altro, ma per me non è quello. Insomma, lei dice un po' anche il controllo, l'attenzione che si può avere magari anche per un interlocutore, un cliente come lei, che segue la questione con compassione e senso civico, qualcun altro può... Vorrei che fosse utile, capito? Esatto, ecco. esatto. Allora, noi dobbiamo dare atto alla Coop di averci messo la faccia, cioè Faccin alla fine, dopo un po' di titubanza da parte della Coop, ci ha messo la sua faccia. E quindi, dottor Faccin, allora, come giustifica questa cosa? La faccia Coop, io personalmente ce la mettiamo volentieri, anzi, come posso dire, ringraziamo tutte queste segnalazioni che ci danno modo non solo di migliorarci, ma anche di dare riscontro di quanto facciamo. Credo sia doveroso intanto dire che ci rincresce quello che è successo, dottor Melappioni, e ci scusiamo qualora non abbia trovato soddisfacenti, come mi sembra di capire molto chiaramente dalle sue parole stamattina, ma probabilmente, secondo me, più per incomprensioni che per contenuto, per difetto di comunicazione, mi viene da dire, le risposte che Coop, tra l'altro riconosciuto dal dottor Melappioni, ha prontamente dato a punto vendita. E quello che a me interessa, al di là del fatto che è assolutamente increscioso, e ripeto, ce ne scusiamo, dire quali sono le attività che Coop pone in essere a verifica della qualità degli alimenti. Ecco, e questo è molto interessante, lo dica, perché mi fa piacere che la Coop abbia l'occasione proprio per raccontare come segue la qualità dei prodotti che mette sui banconi. Prego. Innanzitutto, come posso dire, mi sembra di capire anche dalla mail del dottor Melappioni che la risposta di Coop non è stata sbrigativa, casomai non è stata esaustiva. Tant'è che il capo negozio ha attivato da subito le sue competenze per assicurare il cliente, magari non nel modo, non so, più appropriato con il quale si attendeva il signor Melappioni, dicendo, magari travisando appunto per un difetto di comunicazione, che non è normale, anzi assolutamente spiacevole che accadano episodi di questo tipo, ma può succedere di trovare un parassita nei prodotti ortofrutticoli. Ma mi voglio spiegare se mi dà un... Prego, assolutamente. Per graduare un po' le cose, una cosa è rinvenire un parassita in una scatola di tonno, un pezzo di vetro in un vasetto di marmellata o altri esempi di questo tipo qua. Cosa diversa è rinvenire un parassita in una ciliegia, in una noce, oppure una lumaca sull'insalata, voglio dire, sono cose che incresciose, non sono... Però possono capitare, normali, ma possono certo, capitare. Lei dice per la natura stessa del prodotto che si mette in vendita. Detto che capita, spiacevoli sempre, abbiamo spiegato come funziona il nostro sistema di autocontrollo e abbiamo attivato tutti quei controlli possibili che c'è appunto con gli elementi a nostra disposizione che avevamo in mano a quel momento. Ecco, c'è stato un accenno però da parte del professor Melappioni, una cosa che vorrei che lei spiegasse. Cioè il professor Melappioni a un certo punto ha detto: ma mi è stato detto che non era un prodotto a marchio Coop. Le chiedo, vuol dire quindi che l'attenzione, anche doverosa, ai vostri marchi, a quello che voi commercializzate con la scritta Coop sopra le confezioni, è maggiore rispetto magari ad altri prodotti che invece non derivano dalla vostra produzione cooperativa? Va detto che per i prodotti confezionati, qual era questo prodotto, chiaramente non è che Coop non sia responsabile, ma entra in un ambito di corresponsabilità con il produttore. Certo. Per il prodotto a marchio Coop, del quale noi ne facciamo sicuramente un vanto in termini di qualità, c'è chiaramente un'attenzione nei controlli molto superiore. E questo fa parte appunto della nostra filiera del piano di autocontrollo, o tutta una serie di filtri che noi mettiamo in essere per fare in modo che questi episodi siano numericamente poco importanti nel corso dell'anno. Il nostro sistema che impegna tutta la filiera, per cui Coop Adriatica, a crescere il distretto adriatico e dopo la nostra casa madre Coop Italia, prevede, se mi consente 2 secondi, faccio sempre degli esempi numerici, ma che ci danno anche il modo di dare operare, certo. Esatto, una quadratura. Sul prodotto a marchio, mi ricollego alla sua domanda, Coop Italia nel corso del 2008, cito dati 2008 perché il 2009 sono ancora da consuntivare, ma delle due forse crescono, ha effettuato 4 milioni di controlli. E questo è molto molto importante, molto importante, sicuramente va dato atto di questo. A questo punto io concluderei questa puntata con la voce di Melappioni. Intanto ringrazio ovviamente Faccin. Melappioni, lei nella prima lettera che ci ha mandato ha detto: io prendo atto di questa risposta, però io non mi sento più Coop. Ecco, sì, siamo riusciti a pacificarla con la Coop, Melappioni? Ma io ho un'affinità storica anche personale con la Coop, quindi il problema non è quello, è che se la Coop sono io pensavo di avere qualcosa di più, cioè le ciliegie della Coop non hanno il verme dentro e le ciliegie non della Coop possono averlo. Ecco, la sensazione, nella consapevolezza che ci possono essere, amo la campagna, coltivo le mie ciliegie, quindi lo so, però ho la sensazione che ci sia stata una verifica più d'ufficio che di partecipazione dell'utente. Questo l'abbiamo sentito, l'abbiamo capito dalle sue espressioni, però devo dire che Faccin qui di ufficio ci ha messo poco, ci ha messo molto di passione, quindi almeno prendiamo atto della volontà della Coop in questo senso, augurandoci ovviamente che queste cose, lo dico come consumatore, non accadano troppo frequentemente, anzi non accadano proprio. Ringrazio quindi Melappioni e Faccin per i loro interventi, Pietro Lacorte in regia ed Elisabetta Fusconi in studio, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.